Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa vuoi che da me lo avrai. Hey, ciao, bimba come stai? Dai vedrai che non ci lasceremo mai. Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa hai fatto oggi che ti ascolterò. Hey, ciao, bimba come stai? Devo dirti una cosa, sai? Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi che mi vuoi, che magari pensi già a un futuro per noi. Dimmi che per te io sono importante, perché tu non sei solo una delle tante. Dimmelo ti prego, perché io non ci credo. E proviamoci, dai, che te ne fotte. Sei brillante come una stella nella notte. Brilli perché la mia vita è insieme a te. Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa vuoi, dimmi cosa fai. Hey, ciao, bimba come stai? Cosa hai fatto oggi che ti ascolterò? Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa vuoi, dimmi cosa fai. Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa hai fatto oggi che ti ascolterò. Hey, ciao, bimba come stai? Ti vorrei per sempre e tu lo sai. Hey, scusami, scusami, e cerco di descriverti. Sei così bella che non riesco mai a decidermi se parlarti o rimanere a guardarti. Sembri così dolce e diversa dagli altri. In questo istante sto perdendo lacrime, allora di rime riempio le mie pagine. Ti penso e ti ripenso e non me ne vergogno. Una notte con te, beh, equivale un sogno a fondo. Ma lo sai, io non mi fermo. Amarti un peccato e beh, andrò all'inferno. Confermo, ti vorrei nel mio letto per fare l'amore, ma con tutto il tuo rispetto l'ammetto che non sono perfetto. Il mio difetto, donarti troppo affetto. Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa vuoi, dimmi cosa fai. Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa hai fatto oggi che ti ascolterò. Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa vuoi, dimmi cosa fai. Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa hai fatto oggi che ti ascolterò. Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa vuoi, dimmi cosa fai. Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa hai fatto oggi che ti ascolterò.